40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Top 40 hits. Bene, qua facciamo sentire i top 40, 40 brani più richiesti da voi su Radio Cheer the Moving Station. È stato una settimana caldissimo, avete chiamato tantissimi a Radio Cheer the Moving Station per richiedere canzoni e noi vi facciamo sentire quali più popolari. Allora, iniziamo tra poco con un bel pezzo di musica, prima un po' di notizia per questo artista. Parliamo di Ricky Martin, che sembra innamorato di Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, ricordiamo, era una volta la fidanzata di Brad Pitt e pure la star di Sliding Doors, quel bel film. Sembra che Ricky continui a tormentare l'amica Madonna perché lei gli procuri un incontro con la Paltrow, ma chissà se è solo professionale, se vorrebbero recitare insieme a lei in una commedia romantica, dicono alcune voci, oppure se Ricky vuole svolgere un private emotion con lei. Questo è il numero 40 richiesto da voi, questo è Ricky Martin con Private Emotion. Sono che è proprio out of reach questo beach, cioè non si può raggiungere, però è facilissimo raggiungerlo, basta arrivare qua a Varca d'Oro, su Varcatura, che siamo qua a fare la classifica dei 40 brani più richiesti da voi. Questi sono i All Saints, che troviamo al numero 39 con Pure Shores. Andiamo avanti, Callous Good Stuff al numero 38. C'è Liam Gallagher, Who Feels Love, sono gli Oasis, e Who Feels Love, sembra che Robbie Williams sente l'amore per Liam Gallagher. In un'intervista ultimamente ha detto nonostante il fatto che volevo fare una partita di box con Liam Gallagher qualche mese fa, mo è tutto cambiato e infatti adesso vorrei andare a letto con lui. E non lo so che stanno combinando questi pop stars inglesi. Comunque questo è il numero 37, noi prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con il numero 36, Ligabue. 36 sul lido di Varco d'Oro questo pomeriggio, e questo è Ligabue con almeno credo. Ligabue è un grande artista di nome e di natura pure. Pensate un po', io come irlandese quando sono arrivato in Italia ho visto Ligabue nella classifica, ho detto ma questo non era un grande artista medievale, non lo so, questa classifica italiana è proprio bello. Allora, che ore sono? The time is 20 past 3, the time is now, e numero 35 c'è Moloko. Position number. Life should be fun for everyone. La vita deve divertire, deve fare il divertimento a tutti quanti. E noi ci stiamo divertendo qua, stiamo ascoltando Bell Parade al numero 34. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con Fragma. S-S-P-P-O-O-T. Spende, questo è proprio un canzone che è entrato nella coscienza nazionale, quasi si può dire. Non lo so se è successo a voi. Comunque, se io dico a qualcuno, se qualcuno dice a me, non lo so, dipende, io le dico, ma di che dipende? Loro mi rispondono subito, da che punto guardi il mondo? Tutto dipende. Non lo so, comunque è bello questo. Bravo Giovanotti per i testi italiani, e bravo Harab di Pallo con la voce chitarra e tutto il resto. A posizione numero 32, votate da voi. E voi il numero 31 che avete messo? Avete messo Carlotta con Frena. Cole, voi l'avete messo al numero 30, e Kirsty MacColl è una donna che ha proprio una grande lunga storia, è sposata con il grande produttore Steve Lillywhite, che ha fatto vecchi album degli U2, degli Smiths, Echo and the Bunnymen eccetera. È stato molto popolare pure con la musica irlandese che ha fatto tipo 10 anni fa, e suo padre è anche uno che ha scritto un folk song inglese del nome Dirty Old Town, che è conosciuto in tutto il mondo tranne forse qua. Un giorno ve la faccio sentire. Comunque questo troviamo al numero 30 sulle richieste dei brani fatto da voi su Radio Cheer the Moving Station. Allora, pausa un attimo, prendete carta e penna perché c'è da segnalarvi un grande appuntamento. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In Tour con Giancarlo Cavallo, DJ, questa notte al discoteca Eclipse, uscita tangenziale Varco d'Oro a Napoli. Radio Tour in Tour. Tour. Chiama 081 790 1411. Position number 29. Troviamo Elisa con Gift. Gift, come sapete, vuol dire regalo. E che concerto ci ha regalato ieri Elisa al Neapolis Rock Festival. Proprio un gran bella emozione. Vi consiglio di andarci stasera per forza, perché oltre all'Alma Magretta trovate anche lo Rishis che abbiamo sentito al numero 29 prima di Elisa. Allora, al 28 Elisa, andiamo avanti. Troviamo un grande spagnolo che dice Mi cago en el amor. Questo è il numero 27, è Tonino Caratone. Difficile, ma non è proprio difficile adesso, perché sabato pomeriggio siamo quasi a paradiso, abbiamo il mare che ci sono un po' di onde, infatti noi siamo in onda però non su questo mare, meno male, se no sentirei un po' l'avanza che va su e giù. Comunque vediamo un attimo che ore sono. Ladies and gentlemen, the clock. Le 16. Position number 26. Io ci sarò, infatti ci sta al numero 26. Noi stiamo vedendo la classifica dei brani più richiesti da voi su Radio Tour The Moving Station. Una bella giornata oggi, siamo pronti per vedere quasi che al numero 25. Infatti vedo che è Bumblebee con Crime of Passion. E voi state chiedendo che cos'è un Crime of Passion magari. Vabbè, un Crime of Passion è in una situazione di stress, quando il sangue viene deviato dagli altri organi e rispediti al cuore e ai muscoli, e così tu reagisci ad una o delitto, diciamo, e non pensi nemmeno a che devi fare, fai proprio una bella crimine, bella, brutta anzi. Però in Francia, visto che questo crime of passion non è una cosa premeditato, la galera ti dà solo 10 anni, quindi puoi anche fare brutte cose lì, con le scuse che sia un crime di onore o di passione. In Giordania o Pakistan ti danno solo 6 mesi di galera. Però le donne purtroppo non possono approfittare di queste cose, perché considerati essere un po' più debole, loro non possono creare questo crimine senza premeditazione. Quindi attenzione al numero. Allora, al numero 25, Crime of Passion da Bumblebee. Position number 25. La musica dei brani più richiesti da voi, 40 hit che voi volete sentire, che avete chiamato in Radio Tour The Moving Station tutta questa settimana a chiedere la bella musica. Al numero 24 avete messo Gemelli Diversi con La Musica. E non c'è niente da preoccuparci, ragazzi, perché siamo al mare, siamo a Varco d'Oro, stiamo godendo questa bella giornata. C'è un po' di vento, però niente da preoccuparci. Infatti devo dire proprio don't you worry, perché al numero 23 troviamo i Madison con Don't You Worry. Position number 23. Nothing to worry about, we're all doing fine, don't you worry. Qua io sono Fergal Kavanagh e con me qua sul Varco d'Oro a Lido stiamo divertendoci con Fiore e sulla regia, e ci abbiamo Tetsuya in studio. Stiamo facendo sentire i 40 brani più richiesti da voi su Radio to the Moving Station. Questo è il numero 23, sono in Madison with Don't You Worry. Noi torniamo tra pochissimo con il numero 22, The Bloodhound Gang and The Bad Touch. Music, we're dancing away here, we're on the Lido Varco d'Oro, stiamo ascoltando i brani più richiesti da voi. Siamo arrivati al numero 22, mancano un altro 21 brani. Allora, il numero 22, questi sono The Bloodhound Gang with a Bad Touch, il tocco cattivo. Di che cosa stanno parlando? Vabbè, se avete fatto lezioni di inglese sicuramente avete capito i testi di questa canzone, e non è una cosa che devo spiegare più di tanto. Però facciamo dire che qua sul Lido ci sono quelli che la stanno proprio godendo questa musica in tutti i sensi. Allora, questo era il numero 22, ho detto ci sono 21 canzoni da ascoltare ancora in questa classifica. Andiamo subito sul numero 21, i Belly Belly Backstreet Boys with The One. Position number 21. Backstreet Boys, Tetsuya in studio. Non è che mi potresti procurare il numero di Nicky, il cantante di Backstreet Boys, perché io le devo dire una cosa, devo dire oh caro Nicky, anche se stai cantando The One, infatti sulla classifica di quello più richiesto sei numero 21, non numero 1. Ecco, yes, numero 21. Andiamo avanti con il numero 20, che troviamo i grandi italiani conosciuti ormai in tutto il mondo. Infatti, se non sbaglio, questi avranno guadagnato più soldi di qualunque altro artista italiano negli ultimi 10 anni almeno. Troviamo lì Eiffel 65 and Too Much of Heaven. Position number 20. Told you that. Yeah. Whitney Houston with the help of George Michael, l'aiuto di George Michael, che la mette proprio in questa classifica di Radio Tour The Moving Station, brani più richiesto di voi, al numero 19. E polemica per Whitney Houston, vi l'ho detto già la settimana scorsa, però non sapendo che proprio quella sera, sabato sera scorsa, lei si è esibito a Caesar's Palace di Atlantic City, un grande concert hall a New Jersey. Però purtroppo durante il concerto si è dovuto fermare durante 7 o 8 brani perché non ricordavo i testi, o magari non riuscivo ad arrivare ai noti più alti. Quindi non si sa Whitney Houston come sarà in futuro, se vediamo altre musica da lei nel futuro. Speriamo di sì, perché bella musica dell'estate. Noi siamo sul riva del mare a Lido Varco d'Oro, ascoltando i brani richiesti da voi. Troviamo un gran bel artista catenese siciliano al numero 18, questo è Carmen Consoli con Parole di Burro. Narciso, burro, si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità. Drum and Console lì con parole di burro, e non era il burro che ci stava facendo ieri, non era Moshe per niente, è stato proprio fortissima durante sua esibizione al Neapolis Rock Festival, e speriamo che ripetano questa performance al Mamma Gretta stasera. Noi ci vediamo lì, nel frattempo ascoltiamo numero 17, John Cicada e Stop. Lopez with Let's Get Loud, facciamolo forte. E Jennifer Lopez ha un sogno, ha detto ultimamente, che ha detto in un'intervista, il mio sogno è di risposarmi. Comunque Puff Daddy, suo fidanzato, non si deve preoccupare, perché lei dice non sarà in breve tempo, né tantomeno con Puff Daddy, però dice sono stato già sposato e so che è un passo importante. A proposito del suo rapporto con Puff Daddy, dice la gente non capisce quanto abbiamo in comune, quanti sogni e quante speranze condividiamo, quante cose desideriamo fare insieme. Va bene, allora speriamo bene per loro, e infatti se loro si trovano a Napoli stasera, chissà se vengono a vedere queste cose che adesso vi segnaliamo su Radio Tour. Radio Tour, the moving station, la radio dei grandi eventi. In tour con Giancarlo Cavallo DJ, questa notte al discoteca Eclipse, uscita tangenziale Varco Tour, Napoli. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Position number 15. Porcelain, se vi siete mai chiesto di che rumore è il porcelain, eccolo, pensi un po' di far cadere un bel spicciolo dentro il bagno pubblico, e questo è il suono di porcelain. A me sembra un po' la voce di David Bowie lì, ecco Moby, è un grande questo Moby. Voi l'avete deciso, è così grande che la mettiamo al numero 14 dai brani più richiesti da noi e da voi su Radio Tour The Moving Station. Allora prendiamo un piccolo momento per sincronizzare gli orologi. Ladies and gentlemen, the clock. Le 17. Hanson, tre bei giovani ragazzi che troviamo al numero 12, l'avete scelto voi sulla classifica dei brani più richiesto su Radio Tour The Moving Station. Questo è il numero 12 e questo lo dedichiamo a Walter e Daniela, che stanno in giro per Napoli e gli piacciono molto questa cosa. Io sono Fergal Kavanagh e con me c'è Fiore, e in studio abbiamo Tetsuya. Stiamo sentendo i brani più richiesti da voi, il top 40 on Radio Tour The Moving Station dalla spiaggia del Lido Varco d'Oro. Siamo arrivati al numero 11, chi troviamo? Troviamo un ex collega di Max Casey che si è esibito al Neapolis l'altro giorno. Questo è uno forte che credo di essere Marco, invece è Niccolo Fabi. Se fosse Marco, se fosse Marco, Niccolo Fabi che troviamo al numero 11. Allora al numero 11 vuol dire che è il tempo di fare un piccolo riepilogo. Top 40 hits. Allora al numero 20 troviamo gli Eiffel 65, Too Much of Heaven. 19, Whitney Houston, If I Told You That. Numero 18, la bella voce di Carmen Consoli con parole di burro. 17, Stop di John Cicada. Numero 16, la grande Jennifer Lopez with Let's Get Loud. A 15 abbiamo sentito Santana, Corazon Espinado. E al numero 14, Moby con Porcelain. Numero 13, voi avete scelto Eagle Eye Cherry, Are You Still Having Fun. Al numero 12 abbiamo sentito Hanson and If Only. Abbiamo appena sentito Niccolo Fabi, Se Fosse Marco, al posizione numero 11, il che vuol dire che siamo pronti a sentire i top 10, i 10 brani più richiesti da voi. E iniziamo subito al numero 10, troviamo la bella voce irlandese, a me fa solo piacere, questo è Sinead O'Connor with No Man's Woman. Sulla festa, sulla playa, devo imparare un po' di questo spagnolo. Vamos a la playa ragazzi a ballar, queste palle chiara che noi troviamo a posizione numero 9 sui brani più richiesto da voi su Radio Tour The Moving Station. E palle chiara, se voi vi trovate a Gifoni per il Film Festival, le potete beccare proprio lì, che sia lei che Alexia, che Alex Britti, sono stati scelti in base a un questionario fra migliaia di studenti di campagna per partecipare a questo Film Festival. Mi raccomando, bel film, belle cose. Allora andiamo avanti, troviamo il numero 8, la bella musica di French Affair, Il mio cuore fa boom, vai con la musica. Meet Again, non ci incontriamo mai più, non è assolutamente vero, noi l'abbiamo incontrato al numero 7 dai brani più richiesti da voi, infatti noi adesso prendiamo una piccola pausa, ma non vi preoccupate, ci incontriamo di nuovo dopo non lo so, un minuto e mezzo, due minuti con Alexia, vai con la pubblicità. Summer, I'm crazy for you, Alexia, ti amo, I love you, quel bel mix tra l'inglese e l'italiano, la posso capire proprio perché lo faccio sempre io queste cose. Voi l'avete scelto al numero 6 sui brani più richiesti su Radio Tour The Moving Station. Allora guardiamo in avanti, abbiamo 5 brani da sentire. Al numero 5 sentiamo un album, un canzone tratto da un album che ha venduto 1 milione di copie nel mese di giugno, non è mica poco, stiamo parlando di Bon Jovi con It's My Life, al numero 5. Pop che si trova trovano al numero 4 nelle classifiche dei brani più richiesti da voi su Radio to the Movie Station. Noi stiamo trasmettendo dal Lido Arco d'Oro, è un bel giorno di sole e stiamo divertendo proprio. Questo voglio dedicare a Roberta e Manuela, che sono grandi fan dei Luna Pop. Qualcosa di grande, chiaramente sì, perché è il numero 4. Allora adesso facciamo un piccolo riepilogo, dove si dice dalla 10 al numero 4. Top 40 hits. Allora, al numero 10 troviamo Sinead O'Connor with No Man's Woman. Numero 9 abbiamo Vamos a Ballar, Paola e Chiara. 8 ci sono i French Affair with My Heart Goes Boom. Numero 7 vediamo Gaia with Never Meet. Al numero 6 vediamo Alexia, Ti Amo Ti Amo. E al numero 5 abbiamo sentito It's My Life dai Bon Jovi. Abbiamo appena sentito il Luna Pop con Qualcosa di Grande. E adesso facciamo una piccola pausa e torniamo con il numero 3, Britney Spears, Oops, I Did It Again. È così innocente la nostra Britney Spears, e ci credo, avete tutti quanti sentito del fatto che qualcuno gli ha offerto un sacco di soldi per un notte di passione, ma poi è arrivato un'altra cosa da un gruppo australiano, hanno detto: dai Britney, se tu non dormi con questo tipo noi ti diamo $20. Vabbè, speriamo che ha beccato i $20, perché Britney sono io primo in filo. Comunque questo è il numero 3 da voi su Radio to the Movie Station, i brani più richiesto. Allora dovete prendere carta e penna, perché adesso segnaliamo un grande evento. Radio Tour, the moving station, la radio dei grandi eventi. In tour con Giancarlo Cavallo DJ, questa notte al discoteca Eclipse, uscita tangenziale Varcaturo a Napoli. Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Number 2, questo è Neck, che voi avete messo al numero 2. Ci sei tu al numero 2, yes, ecco, bello questo. Allora, qua ci sono ragazzi davanti a me che volevano fare un bel dedico ad una ragazza che si chiama Eolanda, e dicono: anche se ci dividono 30 chilometri perché sto al mare, il mio cuore è sempre lì con te, ti amo by Virgilio. Ecco, l'amore c'è in spiaggia, questo pomeriggio. Okay. Ecco, questo è l'amore proprio al grande momento. Right, siamo arrivati proprio al punto decisivo, che troviamo al numero 1 dei brani più richiesti da voi. Yes, sono Ola Mosca with Para No Verti Mas. Number 1, per non vederti più, queste sono la Mosca. Voi l'avete scelto al numero 1, il più grande successo di questa settimana richiesto da voi su Radio to the Moving Station, i brani richiesti da voi. Mi raccomando, continuate a chiamare durante questa settimana in modo che ci possiamo vedere più, non come dicono la Mosca, e possiamo vederci la settimana prossima per fare le stesse cose, sempre dal Varco d'Oro, dal bel Lido. Qua sentiamo i più bel brani richiesti da voi on Radio to the Moving Station. Io sono Fergal Kavanagh, adesso è quasi arrivato il momento di scappare al volo, perché c'è il Neapolis Rock Festival non lontano da qua. Devo salire in macchina a fare proprio una scappata veloce. Adesso c'è Fabio che trasmetterà di là, dal vivo on Radio to the Moving Station. E Fabio, voglio dire, spero che questo bicicletta sei riuscito a montarlo, perché la bicicletta è una bella cosa in questa stagione. Ci vediamo in bicicletta al Neapolis tra pochissimo. Sono Fergal Kavanagh, grazie a Tetsuya e grazie a Fiore, alla prossima. Le 18. Radio Tour.